notte mi accompagna nel mio viaggio. Solo come sempre esamino ogni sbaglio. Faccio mente locale e reso conto della mia vita, contorta come un labirinto senza via d'uscita. La confusione crea tempesta nel silenzio. Più passa il tempo e più capisco di non starci dentro. Dove mi sono perso, qui tutto sta cambiando. Ogni fottuto pianto, ora pompa dal tuo impianto. Stanco di storielle e basta. Rispetto alla mia gente, taglio i ponti con i farsi. La luna mi conforta in questa notte senza fine. Chiarore delle stelle, accompagna le mie rime. Nel buio della stanza peso il mille più delire. Nervoso attendo l'alba, fumo fento e tacchini. Questa notte interminabile si perde nei sospiri. Il pensiero si fa scrivere il cielo nero oltre i confini. Oltre i confini, oltre i confini. Giorni tutti uguali. Solo così puoi tornare spazio a quello che viene dal basso del mio cuore. Le note si fanno basse per alzare il malumore. Ma cazzo, più le alzo più me le ritrovo altrove. Dove spingo i miei pensieri così tanto avanti che per pensare ad altri dovrei distanziarmi. Ciò che non uccide ti fortifica e mi fa strano che ogni volta che io cada non riesco ad alzarmi più. Il sole ne è cosciente, al suo calare gli ultimi raggi rimasti riescono a scaldarmi la pelle. Non comprende che il colore del cielo e delle sue stelle più belle mi rassicura ma voglio per sempre. Porta, porta. Sono con te. La mia vita adesso ha un senso, sia darglielo. È stata questa notte. Questa notte è solo mia. Questa notte è che mi appalma solo io. Questa notte chissà cosa arriverà.